America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Milano. Mario Platero, sono di passaggio in Italia, in rientro dal vertice della NATO, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, abbiamo scritto ampiamente sul nostro giornale. Ebbene, il vertice si è chiuso, lo sapete, con la promessa di una coalizione contro l'ISIS, con la promessa di attacchi aerei. Il nemico numero uno diventa il califfato islamico, anche per il rischio di ricadute terroristiche, e dunque l'America è già passata all'azione. L'America è passata all'azione nella giornata di sabato, ma bombardamenti continuano. Aerei americani hanno compiuto una serie di attacchi vicino alla diga di Haditha, che è nella provincia di Anbar in Iraq. Ecco, questa diga è un obiettivo strategico fondamentale, perché è intanto una diga enorme, ma è soprattutto a circa 200-230 chilometri da Baghdad, e in mano dei terroristi dell'ISIL qual è il pericolo? Beh, che loro aprano gli argini e provochino un'inondazione. C'è dunque un pericolo molto molto concreto dal punto di vista della strategia militare. Dal punto di vista formale, gli attacchi sono stati organizzati su richiesta delle autorità di Baghdad. Rasmussen, il segretario generale dell'ONU, aveva detto: se noi riceveremo anche come NATO una richiesta dell'Iraq di intervenire, potremmo considerarla. Per ora la richiesta l'ha ricevuta l'America, ma io credo che ci si muova nella direzione, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, della coalizione. L'ammiraglio Kirby ha detto che questi attacchi, e cito quello che ha detto, sono portati avanti per arginare i terroristi che minacciano la sicurezza della diga, sono coordinati dal Central Command di Tampa. Quali sono le altre operazioni? Beh, ci sono stati degli attacchi nel nord del paese, intorno al monte Sinjar, dove c'erano alcune decine di migliaia di membri della minoranza etnica religiosa degli Yazidi, che si erano rifugiati su questa montagna, e vicino al confine del Kurdistan, e anche degli attacchi vicino alla città di Amerli, che fino a poche settimane fa era circondata dalle milizie dello Stato Islamico. Dunque gli attacchi ci sono già, ma il tutto deve essere ricondotto in un contesto strategico molto più ampio. Il presidente americano ha dato un'intervista a Meet the Press, che ieri ha debuttato, ve lo ricordo, è uno dei programmi televisivi di news della domenica più importanti, più seguiti, e vi dicevo, ha debuttato Chuck Todd al posto di David Gregory. Sentiamolo. Mr. President, we start with a very basic question. Are you preparing the country to go back to war? Ecco, Chuck che chiede al presidente direttamente: stiamo entrando in guerra? Una domanda che tutti gli americani temono. Sentiamo cosa risponde il presidente. I'm preparing the country to make sure that we deal with a threat from ISIL. Keep in mind this is something that we know how to do. Ecco, Obama dice che l'America risponderà alla minaccia che arriva dall'ISIL. Dice: sappiamo come farlo, sono delle minacce gravissime che però abbiamo già confrontato in passato, per esempio contro Al-Qaeda. Avremo una coalizione con i nostri alleati, ma ci saranno, dice il Presidente, soprattutto degli attacchi aerei. Non riporteremo i boots, quindi i soldati, gli stivali, sul campo. La strategia americana è quella in realtà di allargare quanto più possibile questa coalizione, non soltanto ai membri della NATO, ma anche a quei paesi nella regione che sono terrorizzati dal fatto che ci sia un estremismo islamico sunnita che si prende dei pezzi di Iraq, di pezzi di Siria e fa nascere un nuovo califfato. Quali sono? Beh, la Giordania, l'Egitto, l'Arabia Saudita, diciamo i paesi arabi tra virgolette moderati o comunque vicini all'Occidente, che potrebbero, dovrebbero contribuire in modo concreto, e dunque non soltanto con dei finanziamenti, ma anche con una partecipazione militare a fianco degli alleati. Per creare questa coalizione ci vorrà del tempo. Bisogna anche preparare l'America al fatto che nel momento in cui, nell'anno in cui si chiude la guerra in Afghanistan, il 2014, e ve lo ricordo, l'incontro della NATO doveva essere anche una celebrazione della fine di questa missione, ecco, se ne apre un'altra. Sentiamo di nuovo il presidente Obama. I will then meet with congressional leaders on Tuesday, on Wednesday. I'll make a speech and describe what our game plans are going to be going forward. Ecco, lo avete sentito. Ieri Barack Obama ha annunciato che mercoledì farà un discorso alla nazione, ha anche detto che si incontrerà con membri del Congresso perché vorrebbe avere un'approvazione per lo stanziamento di fondi per queste nuove missioni che costeranno naturalmente molto care. Però Obama ha già anticipato quel che dirà al paese. Dice: non ci saranno, come vi ho detto prima, truppe di terra, la nostra operazione sarà più simile a quella che conosciamo, sarà un'operazione mirata contro il terrorismo, perché non possiamo definire in modo diverso dal terrorismo, dagli attacchi terroristici, quello che l'ISIL sta facendo tra Iraq e Siria. Ma insomma, la notizia del discorso non è secondaria, è la prima volta che Barack Obama si rivolgerà al paese per spiegargli la natura di questa nuova missione militare. Al numero uno, come vi ho detto, ci sarà la questione terroristica, ma sul piano emotivo, ed è questo su cui conta la Casa Bianca, questo discorso arriva al centro di un percorso, diciamo, coreografico abbastanza lungo, perché ricordiamolo, Barack Obama arriva in Europa, ha visitato i paesi baltici per cercare di arginare quella che era la minaccia in arrivo dalla Russia, una minaccia oggi secondaria dopo il cessate il fuoco, ma soprattutto per parlare di ISIL. Dopodiché ci sarà questo discorso alla nazione e poi il 22 settembre l'Assemblea Generale dell'ONU di nuovo con il discorso di Barack Obama. Cosa possiamo immaginare? Beh, intanto il discorso centrale è quello alla nazione. Non è un caso che avvenga mercoledì. Mercoledì sarà la vigilia della ricorrenza dell'attacco dell'11 settembre. L'11 settembre, beh, è giorno drammatico, giorno attacco a cui possiamo fare risalire un po' tutti i problemi con cui ci siamo confrontati in questi ultimi 12-13 anni. E purtroppo è un problema che non accenna a finire. Devo dire, la notizia di oggi è che dalla Casa Bianca sono giunte indiscrezioni secondo cui la lotta contro l'ISIL non sarà una lotta facile, ma potrebbe durare degli anni. Dunque, la minaccia del terrorismo, la guerra per cercare di restituire stabilità al Medio Oriente nasce l'11 settembre del 2001. Il 10 settembre del 2014 l'America continua a ritrovarsi con un problema dal quale sembra che non ci si possa liberare mai. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee che riguardano l'America, che sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Da Milano è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!